ma coro baude diriba e diriba bene ngadoroni diriba ye diriba e diriba bene ya dugu ma coro baude diriba e diriba bene magal budeni guyado sabe jeno de nemagal budeni gunaje ke banani jeni ye banazu ye kungo na lamine selfinde la doza nemagal budeni guyado sabe jeno de selamagal budeni guniye ke sebeni jeni ye selasu ye kungo dunyano Yeah, bima dunya da mangala tala mama nani nai gaso e jamandi hikana ji sundanuna e dio benina lunga e benina lunga dawa kujiba ye jiba e jibe ne nyandoro bandi makoro buli jiba e Jiba bene nyadoro mali dala jamba je iwa uya je abibia uke suwe chamandi oluma bara e pasa bangala inye kado uke jege chamandi oluma fene mali dala e abibia uke kele masade nye Kadoga fan and in ye Kadoga Panabaton in ye Kadoga Giatini, eh man. Maladedo. I didn't go much good, Jenny, but me, Megaman, Makati, the man down Guru Mina. Nina de Arata, La Bulukua, Jogana di Jona. Yo meni na lunga e manu bamana kana di silame na silame kana di bamana na bete bi na lunga bulu jakodi bi manu makasi abiyaya bene maji mande ngombana ni japara domina kurumu zon amanyi makuka jemame giribae giribae giriba bene nya noro mani Makoro baule jiba e, jiba bene na mamani. Fala ni zado, fala ni nanyeni e, fanda fala mazado mi, kumona fala ni kasi. Fala ni zado, fala ni nanyeni e, fanda fala mazado mi. Donna fala ni kasi fala ni dado fala ni nanyeni banda fala basa dobi come una fala ni kasi fala ni dado fala ni nanyeni banda fala basa dobi come una fala ni kasi Yanga mawa ado bayu e kwa na ado bayu e na mako ma ado bayu e na ado bayu e